Il mattino dopo, quando il sole sorse immutabile nel suo cielo di un azzurro smaltato, gli parve un sogno l'aver mai pensato di abbandonare la propria casa con i bambini inermi e la donna indebolita e il vecchio. Come avrebbe potuto trascinare i loro corpi per un centinaio di miglia, sia pure verso l'abbondanza? E chi sapeva se al sud c'era del cibo? Si sarebbe detto che quel cielo impudente non avesse mai fine. Forse avrebbero dissipato le loro ultime forze per trovare soltanto altre persone prossime a morire di fame e per di più estranee. Molto meglio restare dove sarebbero potuti morire nei loro letti. Wang Lung sedeva abbattuto sulla soglia e fissava tetro i campi aridi e induriti da cui era stato raccolto tutto ciò che potesse dirsi cibo o combustibile. Non aveva più soldi. L'ultima moneta se n'era andata da molto tempo, ma nemmeno i soldi adesso sarebbero serviti perché non c'era cibo da comprare. In precedenza aveva sentito dire che c'erano uomini ricchi in città che ammassavano cibo per sé e per venderlo ai molto ricchi, ma anche questo aveva smesso di farlo infuriare. Quel giorno sentiva che non ce l'avrebbe fatta a camminare fino alla città, nemmeno al pensiero di mangiare senza dover pagare dei soldi. Perché in realtà non aveva fame. Il morso estremo nello stomaco che aveva avuto all'inizio era ormai passato e poteva prendere un po' di terra da un certo punto in uno dei suoi campi e darla ai suoi figli senza volerne per sé. Mescolata all'acqua, avevano mangiato quella terra per qualche giorno, la terra della Dea della Misericordia, così si chiamava perché possedeva un piccolo valore nutrizionale, anche se alla fine non poteva sostenere la vita. Ma in forma di pappa alleviava per un po' il languore dei bambini e consentiva di mettere qualcosa nelle loro pance gonfie e vuote. Mantenne saldamente il proposito di non toccare i pochi fagioli che Olan continuava a tenere in mano e provò una vaga consolazione nel sentire che li sgranocchiava uno per volta con lunghi intervalli. E poi, seduto sulla soglia, mentre già abbandonava la speranza, e pensava con un sognante piacere di stendersi sul letto e addormentarsi tranquillamente incontro alla morte, qualcuno arrivò attraverso i campi. Degli uomini si stavano dirigendo verso di lui. Rimase seduto mentre quelli si avvicinavano e vide che uno era suo zio e insieme a lui c'erano tre uomini che non conosceva. «Sono molti giorni che non ti vedo», esclamò suo zio con forza e falso buon umore. Avvicinandosi disse nello stesso tono di voce: «E come te la passi bene? E tuo padre, il mio fratello maggiore, è in buona forma?» Wang Lung guardò suo zio, era magro, questo è vero, ma non deperito come avrebbe dovuto essere. Wang Lung sentì nel proprio corpo avvizzito l'ultimo residuo di forza vitale che si raccoglieva per sfogarsi in una rabbia irresistibile contro quell'uomo, suo zio. «Come hai potuto mangiare? Come hai potuto mangiare?» mormorò con voce roca. Non si curò affatto degli estranei o di qualsiasi forma di cortesia. Vide solo suo zio con ancora carne sulle ossa. Lo zio sgranò gli occhi e levò le mani al cielo. «Mangiare!» gridò. «Ah! Se vedessi la mia casa, nemmeno un passero riuscirebbe a trovarci una briciola. Mia moglie, ti ricordi quant'era grassa, quant'era bella e grassa e oleosa la sua pelle? Beh, adesso assomiglia a un vestito appeso a un palo, con solo ossa che sbatacchiano dentro la pelle. E dei nostri figli ne sono rimasti solo quattro. I tre più piccoli se ne sono andati, e io, mi vedi?» Prese il bordo della manica e si asciugò con attenzione gli angoli degli occhi. «Hai mangiato», ripeté in tono spento Wang Lung. «Non ho pensato ad altri che a te e a tuo padre, che è mio fratello», ribatté vivacemente suo zio, «e adesso te lo dimostro. Appena possibile ho preso in prestito da queste brave persone in città un po' di cibo, dietro la promessa che con la forza che mi avrebbe dato li avrei aiutati a comprare un po' di terreni intorno al nostro villaggio. E allora ho pensato innanzitutto ai tuoi buoni terreni, tu che sei il figlio di mio fratello. Sono venuti a comprare i tuoi terreni e a darti dei soldi, cibo, vita». Detto questo, lo zio fece un passo indietro e incrociò le braccia con un ampio gesto che fece sventolare l'abito sporco e stracciato. Wang Lung non si mosse, non si alzò e non riconobbe affatto gli uomini che erano arrivati, ma sollevò la testa per guardarli e vide che venivano davvero dalla città e portavano lunghe vesti di seta liscia. Le loro mani erano morbide e le unghie lunghe. Sembrava che avessero mangiato e che il sangue scorresse ancora rapido nelle loro vene. E all'improvviso li odiò di un odio immenso. Eccoli, quegli uomini venuti dalla città dopo aver mangiato e bevuto lì accanto a lui, mentre i suoi figli facevano la fame e mangiavano la terra dei campi. Eccoli, venuti a storcergli la sua terra in quel momento così drammatico. Li guardò con astio, gli occhi infossati e giganteschi, nella faccia ossuta simile a un teschio. Non venderò la mia terra, disse. Suo zio fece un passo avanti. In quell'istante il più piccolo dei due figli di Wang Lung si avvicinò alla porta, strisciando a quattro zampe. Siccome negli ultimi giorni aveva avuto pochissima forza, aveva ripreso a muoversi ogni tanto, così come faceva quando era molto piccolo. «È questo il tuo bambino?» esclamò lo zio. «Quel bambinetto grasso a cui ho dato una monetina di rame l'estate scorsa?» Tutti guardarono il bambino e all'improvviso Wang Lung, che non aveva mai pianto fino a quel momento, scoppiò a piangere in silenzio. Le lacrime si raccoglievano in grandi nodi di dolore nella gola e rotolavano giù per le guance. «Qual è il vostro prezzo?» sussurrò alla fine. Beh, c'erano i tre bambini che dovevano mangiare, i bambini e il vecchio. Lui e sua moglie potevano scavarsi una fossa nel terreno e distendervisi e dormire, ma c'erano loro. Poi uno degli uomini venuti dalla città parlò, un uomo con un occhio cieco e la faccia incavata, e disse con voce untuosa: «Mio pover'uomo, ti daremo un prezzo migliore di quel che si potrebbe ottenere in qualsiasi altro posto di questi tempi. Per il bambino che sta morendo di fame, ti daremo...» Fece una pausa e poi disse con durezza: «Ti daremo una striscia di 100 monete per un acro.» Wang Lung rise amaramente. «Che cosa?» esclamò. «Le vuoi regalate le mie terre? Quando compro io le pago 20 volte tanto.» «Ah, ma non quando la compri da chi sta morendo di fame», disse l'altro uomo venuto dalla città. Era un tipo piccolo e smilzo, con un naso alto e sottile, ma la voce che uscì da lui fu inaspettatamente sonora, rozza e dura. Wang Lung li guardò tutti e tre. Erano sicuri di averlo in pugno. Cosa non è pronto a dare un uomo per i propri figli e il vecchio padre che stanno morendo di fame? La debolezza della resa si trasformò in una rabbia come non aveva mai conosciuto prima nella sua vita. Si avventò contro quegli uomini come un cane si avventa contro un nemico. «Non venderò mai, mai le terre!» gridò verso di loro. «Pezzo dopo pezzo scaverò i campi e darò da mangiare ai miei figli la terra, e quando moriranno ce li seppellirò, e io e mia moglie, il mio vecchio padre, anche lui, moriremo sulla campagna che ci ha fatto nascere.» E piangeva a dirotto, e la sua rabbia si placò all'improvviso come un vento, e rimase fermo a tremare e piangere. Gli uomini stettero lì, con deboli sorrisi, fra loro anche lo zio, impassibile. Quelle parole erano folli e aspettarono che la rabbia di Wang si spegnesse. E all'improvviso Olan venne alla porta e parlò loro con voce piatta e ordinaria, come se quelle cose succedessero ogni giorno. «Di certo non venderemo le terre», disse, «o quando torneremo dal sud non avremo niente che ci darà da mangiare, ma venderemo il tavolo, i due letti e le coperte e le quattro panche e anche il calderone sulla stufa. Ma i rastrelli e la zappa e l'aratro, quelli non li venderemo e nemmeno le terre.» C'era una certa calma nella sua voce che conteneva più forza di tutta la rabbia di Wang Lung. E lo zio di Wang Lung disse incerto: «Andrete davvero al sud?» Alla fine l'uomo con un occhio solo parlò agli altri e loro mormorarono qualcosa e l'uomo con un occhio solo si girò e disse: «Ah, sono povere cose, buone solo per farci il fuoco. Due pezzi d'argento per tutto, prendere o lasciare.» Mentre parlava si voltò con fare sprezzante, ma Olan rispose tranquillamente: «È meno di quel che costa un letto, ma se avete l'argento datemelo in fretta e prendetevi le cose.» L'uomo con un occhio solo frugò nella cintura e fece cadere nella mano tesa della donna l'argento, e i tre uomini entrarono in casa e presero il tavolo e le panche e il letto nella stanza di Wang Lung con le coperte e staccarono il calderone dalla stufa di terra in cui era inserito. Ma quando entrarono nella stanza del vecchio, Lo zio di Wang Lung restò fuori. Non voleva che il fratello maggiore lo vedesse e non voleva essere lì quando avrebbero messo il vecchio sul pavimento e portato via il suo letto. Quando tutto fu finito e nella casa totalmente vuota erano rimasti solo i due rastrelli e le due zappe e l'aratro in un angolo della stanza centrale, Olan disse al marito: Andiamocene finché abbiamo i due pezzi d'argento e prima di dover vendere le travi della casa e di restarcene senza un buco in cui poter strisciare quando torneremo. E Wang Lung rispose gravemente: Andiamo. Ma guardò attraverso i campi in direzione delle figurine degli uomini che si allontanavano e continuò a mormorare: Almeno ho i campi, ho i campi. 10. Non c'era altro da fare se non tirare bene la porta sui cardini di legno e fissare la sbarra di ferro. Tutti i vestiti li portavano addosso. Olan mise in mano a ciascun bambino una scodella per il riso e un paio di bacchette, e i due maschietti li afferrarono contenti, stringendole come una promessa di cibo in arrivo. Si incamminarono così attraverso i campi, una piccola tetra processione che avanzava così lentamente che sembrava non sarebbero mai arrivati alle mura della città. Wang Lung teneva in braccio la bambina, ma poi vide che il vecchio rischiava di cadere e allora la diede a Olan e, abbassandosi sotto il padre, se lo prese sulle spalle e lo trasportò barcollando sotto il corpo rinsecchito e leggero del vecchio. In assoluto silenzio passarono oltre il tempietto dentro il quale si trovavano le due piccole e solenni divinità che non si accorgevano mai di nulla. Wang Lung sudava, tanto era debole, nonostante il vento freddo e tagliente. Il vento non cessava mai di soffiare su di loro e di colpirli, tanto che i due bambini piangevano per il freddo, ma Wang Lung li incitava dicendo: Siate due ometti, state viaggiando verso il sud, là c'è calore e cibo tutti i giorni, riso bianco per tutti noi ogni giorno, e ne mangerete e mangerete. Fermandosi spesso a riposare, raggiunsero infine la porta nelle mura, e se un tempo Wang Lung aveva goduto della sua frescura, adesso batteva i denti alle folate del vento invernale che soffiava furiosamente attraverso il passaggio, come acqua ghiacciata che scorre tra due pareti di roccia. Il fango sotto i loro piedi era spesso e coperto di aghi di ghiaccio e i due bambini non riuscivano ad andare avanti e Olan era carica della bambina e stremata per il peso del proprio corpo. Wang Lung barcollante attraversò il passaggio con il vecchio, poi lo depose e tornò indietro e prese ciascun bambino e lo portò dall'altro lato. E quando ebbe terminato, grondava a sudore come fosse pioggia, totalmente esausto, tanto che dovette appoggiarsi a lungo contro il muro umido, gli occhi chiusi e il respiro che entrava e usciva veloce, mentre la sua famiglia lo aspettava tremando immobile. Adesso erano vicini al portone della grande casa. Ma era serrato, i battenti di ferro torreggiavano in tutta la loro altezza e i leoni di pietra ai due lati erano grigi e battuti dal vento. Sui gradini di ingresso erano rannicchiate alcune stracciate figure di uomini e donne stremate dalla fame che guardavano il portone chiuso e sbarrato, e quando Wang Lung passò loro davanti con la sua piccola, misera processione, una voce incrinata si levò. I cuori di questi ricchi sono duri come i cuori degli dèi. Hanno ancora riso da mangiare e del riso che non mangiano continuano a fare vino, mentre noi moriamo di fame. E un altro aggiunse al lamento: Oh, se per un istante avessi forza in questa mano, appiccherei il fuoco alle porte della città e alle case e alle corti che stanno dentro. Anche se dovessi bruciare io stesso tra le fiamme, mille volte siano maledetti i genitori che hanno partorito i figli dei Huang. Ma Wang Lung a tutto questo non rispose e in silenzio proseguirono il cammino verso sud. Dopo aver attraversato la città ed esserne usciti sul lato meridionale, cosa che avvenne molto lentamente, tanto che era ormai sera e quasi buio, trovarono una moltitudine di persone diretta a sud. Wang Lung cominciava già a pensare a quale angolo del muro scegliere per dormire la meglio, stretti gli uni agli altri, quando all'improvviso si trovarono in mezzo a una grande folla e chiese a uno che premeva contro di lui: Ma dove sta andando tutta questa folla? E l'uomo disse: Abbiamo fame e vogliamo prendere il carro di fuoco per andare al sud. parte da quell'edificio laggiù e ci sono carri per quelli come noi che costano meno di una monetina d'argento. Carri di fuoco? Ne aveva sentito parlare. Nella casa da te, in tempi ormai andati, Wang Lung aveva sentito raccontare di quei carri attaccati uno all'altro e tirati non da uomini né da bestie, ma da una macchina che col respiro emetteva fuoco e acqua, come un drago. Si era detto molte volte che in un giorno di festa sarebbe andato a vederlo, ma fra una cosa e l'altra, da fare nei campi, non c'era mai stato tempo, perché lui stava a nord della città. C'era poi sempre la diffidenza verso quello che non si conosceva e non si capiva. Non è bene che un uomo sappia più di quel che è necessario alla sua vita quotidiana. Adesso però si girò dubbioso verso la donna e disse: «Sarà il caso che saliamo anche noi su questo carro di fuoco?» Allontanarono un po' il vecchio e i bambini dalla folla che passava e si guardarono ansiosi e spaventati. Approfittando della brevissima tregua, il vecchio si accasciò a terra e i bambini si stesero nella polvere, incuranti dei piedi che scalpicciavano dappertutto intorno a loro. Olan portava ancora la bambina, ma la testa pendeva sul suo braccio e con quegli occhi chiusi sembrava morta, al punto che Wang Lung, dimenticando tutto il resto, esclamò: «È già morta la piccola schiava!» Olan scosse la testa: «Non ancora. Il suo respiro tremola avanti e indietro, ma morirà questa notte, e anche noi, a meno che...» Poi, come se non fosse in grado di dire un'altra parola, lo guardò col suo viso squadrato, ormai scarno e spossato. Wang Lung non rispose niente, ma pensò che dopo un altro giorno di cammino come quello sarebbero morti tutti prima di notte, e raccogliendo nella voce tutta l'energia di cui era capace, disse: «Su, su, bambini, e aiutate anche il nonno ad alzarsi. Andremo nel carro di fuoco e staremo seduti mentre cammineremo verso sud.» Ma nessuno può dire se davvero si sarebbero mossi, se tuonando nell'oscurità non fosse arrivato un rumore simile alla voce di un drago, e insieme a questo due grandi occhi che sbuffavano fuoco, e tutti si misero a correre e a gridare, e avanzando nella confusione erano spinti di qua e di là, ma sempre disperatamente stretti gli uni agli altri, finché non furono spinti da qualche parte nel buio, circondati dalle grida e dai richiami di tante voci, verso una porticina aperta e in una stanza che sembrava una grande cassa, e poi, con un rombo incessante, la cosa in cui erano saliti si lanciò nel buio, portandoli all'interno del suo corpo vivo. 11. Con i suoi due pezzi d'argento, Wang Lung pagò per un centinaio di miglia di strada, e il bigliettaio che prese il suo argento gli diede come resto una manciata di monetine di rame, e con alcune di queste Wang Lung comprò da un venditore ambulante che aveva infilato il suo vassoio di merci in un buco del carro, non appena si era fermato, quattro piccole pagnotte e una ciotola di riso morbido per la bambina. Era più di quel che avevano potuto mangiare in una volta sola da molti giorni, e nonostante non pensassero ad altro che al cibo, nel momento in cui l'ebbero in bocca, il desiderio li abbandonò e fu solo a forza di parole incoraggianti che i bambini lo inghiottirono, ma il vecchio succhiava con accanimento il pane fra le gengive sdentate. «Bisogna mangiare!» diceva con voce stridula e amichevole a tutti quelli che lo stringevano su ogni lato mentre il carro di fuoco avanzava traballando per la sua strada. «Non mi importa se la mia stupida pancia è diventata pigra dopo che per tante giornate non ha avuto nulla da fare. Deve mangiare. Non voglio morire solo perché lei non ha voglia di fare il suo lavoro.» Ed un tratto la gente rideva davanti a quel vecchio raggrinzito e sorridente, con i peli della rada barba bianca sparsi per il mento. Ma Wang Lung non spese in cibo tutte le monetine di rame, tenne quel che riuscì a risparmiare per comprare stuoie con cui costruire una baracca una volta che avessero raggiunto il sud. Nel carro di fuoco c'erano uomini e donne che erano stati in altre annate al sud, alcuni andavano ogni anno nelle ricche città del sud a lavorare e a mendicare, risparmiando così i soldi per il cibo. E Wang Lung, quando si fu abituato alla meraviglia di quella cosa in cui si trovava e allo stupore di vedere il suolo vorticare attraverso i buchi nel carro, ascoltò quel che gli uomini dicevano. Parlavano con la voce sonora della saggezza di chi si trova in mezzo a ignoranti. «Per prima cosa devi comprare 6 stuoie», disse un uomo con le labbra rozze e pendule come quelle di un cammello. Vengono 2 centesimi a stuoia. Se sei sveglio e non ti comporti come un merlo di campagna, in quel caso te le faranno pagare 3 centesimi, che è più del giusto, lo so bene. Io non mi lascio prendere in giro da quelli delle città del sud, anche se sono ricchi. Scosse il capo e si guardò intorno in cerca di ammirazione. Wang Lung ascoltava, preoccupato, e poi lo incalzò. Era accovacciato sulle cosce, nel fondo del vagone, che dopo tutto era solo una stanza vuota, fatta di legno, senza nulla per sedersi, con il vento e la polvere che volavano attraverso le fessure sul pavimento. Poi, disse l'uomo, a voce ancora più alta, per sovrastare il frastuono delle ruote di ferro sotto di loro, poi le legate insieme per farci una baracca e ve ne andate fuori a mendicare, e dopo esservi imbrattati di fango e sporcizia per avere l'aspetto più miserabile possibile. Wang Lung non aveva mai mendicato in vita sua e non gli piaceva l'idea di mendicare qualcosa da gente straniera del sud. Bisogna mendicare, ripeté. Sì, certo, disse l'uomo dalle labbra rozze, ma solo dopo aver mangiato. La gente al sud ha così tanto riso che ogni mattina si può andare in una mensa pubblica e per 1 centesimo riempirsi la pancia di pappa di riso bianco. Dopodiché si può andare tranquillamente a mendicare e comprarsi tofu e cavolo e aglio. Wan Lung si scostò un poco dagli altri, si girò con la faccia alla parete e di nascosto contò con le dita le monete che gli erano rimaste nella cintola. Ce n'erano abbastanza per 6 stuoie e in più 1 centesimo a testa per il riso, e gli sarebbero restati ancora 6 centesimi. Provò un senso di sollievo al pensiero di poter cominciare una nuova vita, ma l'idea di tenere in mano una ciotola e mendicare da chiunque passasse continuava a disturbarlo. Andava bene per il vecchio e per i bambini e persino per le donne, ma lui aveva le sue mani. Non c'è lavoro per le mani di un uomo? Chiese improvvisamente all'uomo voltandosi. Ah, lavoro! Disse quello con disprezzo e sputò sul pavimento. Puoi tirare un ricco in un risciò giallo se ti piace, e sudare sangue per il caldo atroce mentre corri, e coprirti di uno strato di sudore ghiacciato mentre aspetti di essere chiamato. Grazie, preferisco mendicare. E lanciò una bestemmia tale che Wang Lung non gli chiese altro. Ma era comunque una buona cosa aver sentito quel che diceva l'uomo, perché quando il carro di fuoco li ebbe portati fin dove poteva portarli, buttandoli fuori sulla terra nuda, Wang Lung aveva pronto un piano e sistemò il vecchio e i bambini accanto al lungo muro grigio di una casa che stava lì, disse alla donna di badare a loro e andò a comprare le stuoie, chiedendo ora all'uno, ora all'altro, dove fossero le vie dei mercanti. All'inizio stentava a capire quello che gli dicevano, tanto erano striduli e taglienti i suoni che quella gente del sud emetteva nel parlare. E diverse volte, quando chiedeva e loro non capivano, diventavano impazienti. Imparò così a osservare le persone prima di chiedere e a scegliere quelle con la faccia più gentile, perché la gente del sud si inalberava in fretta e facilmente, ma alla fine trovò il negozio di stuoie al margine della città e mise i suoi centesimi sul bancone come uno che conosce il prezzo delle merci e si portò via il suo rotolo di stuoie.